si dice? Good afternoon. Sì. Good afternoon. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sì, caro Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia Luisa Fazzoni, redazione, che si dice good afternoon, buon pomeriggio a tutti, soprattutto a Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va, come va? Sei carico per il ritorno del campionato di Serie A? Sempre carico. Sempre carico. Mi è mancato molto. Anche a me, come ogni volta che si ferma. Pause, inutili. No, beh, inutili. No, beh, questo giro c'era perché... poi c'era Italia-Spagna, per carità, poi abbiamo fatto il Golden Foot, Monte Carlo, però insomma, dai. Però dai, insomma, what are we talking about? Tra un po' l'inglese potrebbe essere inutile a Conte, poi ne parliamo, sarà uno degli argomenti della giornata, perché in Inghilterra si dice che Conte sia già sulla porta girevole del Chelsea. Allora, però partiamo dai temi del campionato, poi vi dico di che cosa parleremo e vi invito 800240024. Domani sera a Torino commenterai Juventus-Udinese, una partita dall'esito scritto. Ah, tra l'altro, poi facciamo anche la schedina, più tardi state, sì, state con noi. Allora, sentiamo Allegri che ha già parlato. Domani è la prima partita di un mese importante, perché abbiamo due scontri diretti in campionato con Milan e Napoli e abbiamo l'andata e ritorno con Lione in Champions. In più, cosa non da poco, è che domani bisogna battere l'Udinese, perché ci permetterebbe sicuramente di rubacchiare dei punti in caso di vittoria o alla Roma o al Napoli o da entrambe. Su quel rubacchiare si farà un sacco di ironia, come ben sai. Sì, però. No, ma sto scherzando, eh. I'm joking, visto che oggi abbiamo deciso di introdurre un po' di inglese. Allora, ovviamente il big match domani mi sembra uno Juventus-Udinese, leggevo oggi anche l'intervista del Neri, uno Juventus-Udinese estremamente sbilanciato a favore di quelli di Torino. Sì, però è anche vero che se no andiamo a casa tutti. Sicuramente sbilanciato. Andiamo a casa sbilanciato. Sappiamo che quando ci sono le pause, qualche volta insomma ci sono delle sorprese. Non so dirti se la sorpresa arriverà da Torino, non credo, francamente. Poi faremo anche la schedina, però insomma ci sono teoricamente un paio di elementi che possono modificare l'ordine costituito. Uno è la pausa, due è il cambio in panchina dell'Udinese. Sappiamo qualche volta c'è un effetto di carattere psicologico, sì, non sempre, sì, ovviamente, sì, ma qualche volta c'è una scossa improvvisa, e quindi credo che la Juve farà bene ad affrontare la partita col massimo del rispetto. Detto questo, insomma, è ovvio che la qualità delle due squadre è molto diversa e lo sbilanciamento che esiste fra grandi e piccole negli ultimi anni è sicuramente superiore a quello che c'era negli anni 80-90. Mm-hmm. Domani però, come sappiamo, il piatto forte sarà subito dopo pranzo, perché c'è Napoli-Roma, una partita che ha mille sapori. Io potrei lanciarmi una provocazione, mi sembra quasi la partita della A2, cioè del campionato parallelo, del campionato alternativo, ma continuiamo a credere che possa eleggere la contendente principale della Juventus. Spalletti ha già parlato, De Laurentiis e Sarri ancora no, sentiamo Spalletti. Napoli è la miglior squadra che c'è nel nostro campionato come gioco espresso, sono quelli più bravi di tutti, insieme, per quello che ho visto io, insieme a qualche altra squadra, però loro come modo di stare in campo, come equilibrio, come riconoscere le cose che vogliono mettere in pratica, che vogliono ricercare, sono quelli più bravi di tutti. Sono quelli più bravi di tutti? Beh, come gioco offensivo il ragionamento ci sta. Forse se parliamo di calcio estetico, parliamo di efficacia, secondo me la Juve si lascia preferire, non lo dico io, dicono i numeri, lo dice la storia di questi anni, però io credo che questa, se vuoi, forzatura o sottolineatura di Spalletti ci sia un fondo di verità, più di un fondo di verità, ci siano elementi di verità e la voglia di riconoscere comunque a Sarri un valore. Poi abbiamo detto mille volte la caratteristica, la categoria della bellezza estetica, della spettacolarità non sempre coincide con la categoria dell'efficacia. La forza della Juve in questo inizio di stagione sarà il fatto di aver vinto alcune partite senza brillare tantissimo, quasi per inerzia, quasi per superiorità prestabilita, e i campionati si vincono così. Il Napoli per vincere spesso ha bisogno di giocare bene, e quando gioca male fatica un po' di più, e questa è una grande differenza. Quindi, però che da un punto di vista di spettacolarità, di bellezza, di divertimento, il Napoli sia una grandissima squadra, non ci sono dubbi. Sì. Allora fermiamoci un attimo per il traffico. 800 24 00 24, numero verde. Poi parleremo, ovviamente torneremo tra poco sui temi, sul tema Napoli-Roma, che è il big match di questa giornata, domani alle 15. Parleremo di Conte, che come si scrive e legge in Inghilterra, bookmakers addirittura non quotano più l'esonero di Conte perché dicono che è davvero sull'uscio. Sarebbe una follia totale, secondo me, per mille ragioni. Domani potrebbe giocarsi la panchina, parleremo più tardi anche invece del redivivo Balotelli, cui l'Equipe l'altro giorno ha dedicato questa prima pagina, l'indomabile, e di cui molti adesso cominciano a chiedere un po' sottovoce magari il ritorno in nazionale. Faremo la schedina, parleremo di mondiale di ciclismo, parleremo di delle prime prove che abbiamo visto in Giappone per quanto riguarda la moto mondiale, con una brutta notizia: Pedrosa si è fatto male, si è rotto la clavicola, è già tornato a casa, non correrà con la Honda. Insomma, tutti questi temi fino alle 15.30, 800 24 00 24, il numero verde. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Convocati. Deve stringere Brighi in raddoppio di marcatura, palla in mezzo per Gabbiadini, ed è 1-0 Napoli. Taglio perfetto di Gabbiadini, quarto gol in carriera contro la sua squadra. Totti dentro, Salah, Mohamed Salah, 4-0, 3 assist di Totti. Occhio al corner con i 5 saltatori, Azzi! Di Cresta Azzic! 1-0 Napoli, sul primo palo, la carica dei 101 gol di Azzurro. E segna il gol dell'1-0. C'è un ascoltatore che Napoli-Roma l'ha già cominciata, è laziale, scrive spesso, lo saluto, la butto lì. Napoli-Roma sarà lo spareggio per il terzo posto, perché dopo la Juve arriveremo noi della Lazio. Beh, noi cominciamo a giocarla intanto. No, questa io partita posso dirti, con un po' di anticipo. Dirti, io non credo che la Lazio arriverà seconda, però la Lazio è una bellissima squadra e mi fa piacere poter ribadire col ditino alzato di chi l'aveva detto, e al netto di tutte le cose che si dicono di Lotito, assolutamente sì, nel rapporto con i tifosi e col pubblico, mi sembra che anche questa campagna acquisti, alla fine, dopo il disfattismo di tutta l'estate che c'è stato, io ero a Roma durante il periodo di giugno, di luglio, e ricorderete il ritiro, ricorderete che erano 11 abbonati, 13 abbonati, il giorno che saltò Bielsa, sembrava che fosse retrocessa la Lazio. In realtà non è così, perché comunque poi alla fine il lavoro tecnico di questa squadra è un lavoro sempre più che sufficiente, e in certi casi molto positivo. Poi è chiaro che il tifoso biancoceleste è abituato a una storia recente, per esempio quella di Gragnotti, di grandi investimenti, di grandi successi, la possibilità di vincere il campionato, di poter lottare per le coppe. Questo con Lotito non è possibile, e con questa gestione non è possibile, ma non è qualcosa di molto diverso dalla realtà, certo, che vivono altre squadre altrettanto importanti, penso alla Fiorentina. Quindi è un po' una dimensione, secondo me, del calcio moderno. Sì, della buona borghesia, è buona borghesia, che spesso è l'indicatore del valore di un campionato. Ma andiamo su Napoli-Roma, perché abbiamo due ospiti, due amici. Vai. Giuseppe Di Piazza, Corriere della Sera. Ciao. Eccomi. Eccolo. Boris Sollazzo, eccolo. Salve a tutti. Salve come a tutti. Va? Come va? Io sono curioso di sapere da voi come... lasciamo stare le scaramanzie, ragazzi, per favore. Però, Giuseppe Di Piazza, questa partita che Spalletti ha appena battezzato contro la squadra più bella che c'è in Italia, tu ti accontenteresti del pareggio? Ma guarda, secondo me Napoli-Roma si è già giocata. È giocato l'altro giorno, assist di Maradona, gol di Totti. Ah, vabbè. Mi sembra che sia andata così, cioè poi alla fine non so se il capitano sarà in campo, probabilmente no, ma insomma moralmente c'è una grande fratellanza, che se ne dica. Siamo le due squadre più forti del centro Italia, ce la giochiamo, sono due squadre entrambe belle, e ha ragione Spalletti, perché onestamente il Napoli di Sarri è veramente una squadra bella da vedersi. Boris, per Gabbiadini sarà la prova del 9, non solo perché giocherà con, ovviamente, in posizione di numero 9 dopo il crack di Milik. Sì, c'è da dire che Gabbiadini ha veramente fatto di tutto, è riuscito a far vincere, a far cedere Higuain e poi a trovare spazio nonostante Milik. Adesso scherzi a parte, io credo che sia anche una bella prova del 9 per lui, perché forse questo, farò inorridire molti, sarà la partita, sarà il match in cui meno mancherà Milik, perché secondo me per i problemi difensivi che ha la Roma il gioco di un Gabbiadini in forma, ovviamente di un Gabbiadini in palla, è persino più adatto. Il problema sarà la continuità di Gabbiadini, adesso al di là di quello che succederà a Napoli-Roma, vedere come reagirà a queste 10 partite dopo sostanzialmente due anni e mezzo in cui ha giocato molto part-time. Cioè, il carattere e la continuità forse un po' meno, però l'importante, se mi chiedi invece di Napoli-Roma, è che non pareggino le due squadre, perché cioè l'X non lo vuoi, non lo accetteresti? No, non è che non lo accetterei, è che per il bene del campionato un pareggio tra Napoli e Roma sarebbe essenziale per il campionato. Poi per carità, sì, poi se perdo 2-0 all'ottantesimo e pareggiamo 2-2 va, sì, bene, per me come tifoso. Questo è ma chiaro, come... mi viene in mente una sorta di respiratore artificiale per il campionato, ma sto estremizzando, Pardo, sto estremizzando. Certamente la difesa della Roma problemi ce li ha e sono anche difficili da nascondere. Sì, ma sono due squadre belle e imperfette, questa è la verità, mentre la Juve è una squadra perfetta, o quantomeno perché si avvicina alla perfezione in maniera molto più precisa rispetto a queste due. Non è che manchino qualità a Napoli e Roma, ne hanno, i punti di forza di Napoli e Roma non sono secondo me inferiori rispetto ai punti di forza della Juve, sono le aree di debolezza di Napoli e Roma che sono superiori rispetto a quelle della Juve, cioè ci sono dei problemi oggettivi. Nel caso della Roma sicuramente c'è un problema dal punto di vista difensivo abbastanza significativo, con troppe amnesie, troppe situazioni imbarazzanti in queste primissime partite, troppi errori individuali. Nel Napoli in realtà il cammino fino alla davanti a Napoli sembrava un cammino virtuoso sui livelli della Juve, poi quella è una partita che ha un po' sparigliato, perché è stato un passaggio a vuoto non da poco, anche perché poi l'aggravante è che il Napoli andrò sotto subito e ciò nonostante in 80 minuti non ha avuto la forza di rimettere a posto la partita, quindi anche qui sono veramente molto curioso. Penso che Napoli sia favorito perché ha qualcosa di più secondo me in assoluto e perché gioca in casa. Sì, Giuseppe Di Piazza, stai rivedendo, non so quali fossero all'inizio le tue idee su Dzeko, che sta giocando comunque un buon inizio di stagione nazionale compresa? Ma guarda, Dzeko lo avevo definito un ottimo calciatore, nel senso che sbaglia di testa, di destro e di sinistro, quindi era nella prima parte del campionato e nell'ultima precedente era un disastro assoluto. Mi sembra che sia resuscitato, ora non so se è stata una cura Spalletti molto, molto efficace, l'ho visto giocare bene per sé e per la squadra, ma quello che poi spesso serve è che lui giochi per sé, perché un centravanti messo lì davanti poi qualcosa deve pur farla, se non la butta dentro, e la sta buttando dentro piano piano. Sì, sono due squadre che paradossalmente, ragazzi, hanno entrambi il problema centravanti, no? Mi sembra siano quantomeno accomunate, affratellate da questo problema. Ma io vorrei Koulibaly, veramente, vorrei Koulibaly da loro. per uno scambio in campo. Io Manolassa da loro. Tu Manolassa. Il sesto centrale di difesa, sei incontattabile, Boris. Sì, no, io Manolassa e Koulibaly insieme, a Viola c'ha 32 anni, possiamo fare tranquillamente. No, sono d'accordo, Manolassa e Koulibaly sarebbe una grande coppia. Il Napoli ha tanti, il Napoli secondo me è cresciuto moltissimo dal punto di vista proprio della profondità della rosa rispetto all'anno scorso. Ha perso Higuain, ovviamente non è un dettaglio, è un giocatore che spesso vince le partite da solo, quindi questo non è in discussione, però la profondità della rosa del Napoli è cresciuta molto. Tonelli era un giocatore sul mercato interessante e sappiamo che praticamente non si è ancora visto. Rocchi è un investimento in prospettiva. Diawara era stato cercato dalla Roma e ancora non si è visto, e a Napoli invece il Napoli l'ha preso. Quindi insomma io credo che la crescita del Napoli sia evidente, con quel piccolissimo dettaglio che Higuain è stato venduto e che fra l'altro Milik si è fatto male. Sì, non, certo, chiaramente certo. Non è un dettaglio, però rispetto all'anno scorso secondo me c'è molta più qualità e quantità, questo non ci sono grandi dubbi. Sì, signori, un'ultima cosa, domani al di là del gemellaggio eccetera eccetera sarà una prova del 9 anche qui importante, non solo per Dzeko e per Gabbiadini ma anche per i rapporti tra le due tifoserie. Questa è un'altra realtà che è inutile nascondere, sulle quali è inutile glissare, Giuseppe Di Piazza. Sì, lo so, a me dà molto fastidio che sia successo tutto quello che è successo, veramente insopportabile. Mi sembra un buon segno il fatto che si giochi alle 3 un sabato, insomma, dove tutto è più facile da tenere sotto controllo, però insomma forse dovrebbero anche piantarla gli estremisti di entrambe le tifoserie. Grazie Giuseppe, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Ciao, Boris. Grazie. Se coglie un clima da questo punto di vista migliore, premesso che poi spesso il clima complessivo fra le tifoserie e i rapporti fra le città non c'entrano niente con situazioni specifiche che riguardano gruppi di tifosi, no? Però mi sembra che in quest'ultimo tempo c'è anche un'iniziativa, la sottolineiamo, da parte che è partita da Napoli, che ha preso l'adesione di una frangia di tifosi, di tribuna dei comitati dei tifosi della Roma, indipendentemente dal discorso delle curve, di tornare quasi al gemellaggio. Ma c'è un clima diverso? Ma non lo so, nel senso forse a Napoli sì, c'è un clima più disteso. Il problema dei rapporti tra i tifosi di Napoli e Roma temo sia sostanzialmente il fatto che dopo quello che è successo, che non è da addebitare a un tifoso della Roma ma a un criminale, sono due cose diverse insomma, il problema è stato forse la solidarietà che una grande fetta dell'Olimpico con Striscioni e vario altro ha espresso in maniera insomma particolarmente pesante per chi comunque ha subito una perdita, e questo non ha aiutato. Mi sembra effettivamente che negli ultimi mesi ci sia una ricerca, anche perché poi le due tifoserie, dirò una cosa che darà fastidio a tutte e due le tifoserie, sono davvero molto simili, sono davvero molto legate, molto simili. E io ricorderò sempre, l'ho già detto su queste frequenze e lo ridico, ricorderò sempre il primo scudetto del Napoli celebrato dal Roma Club di Trastevere con uno striscione tricolore e giallo-rosso e con sopra scritto il Roma Club Testaccio, scusate, saluta il Napoli campione d'Italia. La viviamo alla stessa maniera, e forse se si riuscisse a riavvicinarsi forse si potrebbe creare un terzo polo oltre alle milanesi e alle torinesi anche nello sportivo. Io soffro da romano, da romano napoletano soffro molto chiaramente di questa cosa, spero che ci sia un clima più disteso. Io però temo che il peso delle tifoserie organizzate o disorganizzate, come nel caso della Roma, sia ancora molto troppo forte e anche troppo pericoloso in attesa di nuove... C'è un timore che ho anch'io, è un timore che condivido con te, Boris Sollazzo. Grazie, ci sentiamo presto, Boris. Grazie, a presto. Ciao. Ci fermiamo per la borsa, torniamo, 800 24 0024, numero verde. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto. e Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Namo, let's go! Tutti convocati. Buongiorno Stefano da Bologna, anche se qui a Milano è notte, c'è un tempo da lupi. Dica. Anche qua, intanto anche lì scherza niente. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie della convocazione. Sì, anche qua non scherza molto. A parte, al di là del meteo, vogliamo parlare di questo o di qualcos'altro? No, no, se sono previste precipitazioni. Previste precipitazioni, sì. Avevo sentito all'inizio un accenno sulla possibile esonero di Conte. Sì. Allora niente, volevo fare un commento su Conte, diciamo, come allenatore, che secondo me è sempre stato un po' troppo sopravvalutato per quello che ha fatto. Perché allenare la Juve ci poteva andare anche Pardo, secondo me. Infatti abbiamo visto quando è andato Allegri. Pardo non c'è stato, però c'è stato Ranieri, c'è stato Del Neri che domani la sfiderà. Del Neri va bene. C'è stato Allegri, Ferrara. Allegri che stava facendo un macello con il Milan, è andato alla Juve, improvvisamente è diventato l'allenatore più bravo d'Italia. Così, perché la Juve alla fine, bisogna ammetterlo, è l'unica squadra italiana che vince anche quando non gioca bene, a differenza delle altre che quando non giocano bene è facile che pareggino. Quindi, perdano. Quindi diciamo, posso parafrasare in una parola, Conte è una pippa. Questo? Conte è un buon allenatore, come il 90% degli allenatori italiani, però non è né Capello né Ancelotti né Guardiola né Mourinho, se vogliamo metterci in mezzo anche mister simpatia. Però ecco, forse con Mourinho in comune la simpatia sicuramente. Sì, non è un Stefano non è un estimatore di Antonio Conte, questo l'avevamo intuito. Ma io ho un dubbio su Conte, ne parlavo qualche giorno fa, e cioè che questa sua premessa, Conte è un bravissimo allenatore, contestualizziamo le cose, però che la sua grande qualità, che in Italia abbiamo apprezzato tantissimo, questa capacità di dare intensità, di essere un martello, di lavorare proprio sull'intensità. Che abbiamo e sulla visto, testa dei giocatori e dentro la testa dei giocatori. Mentre in Italia rappresenta oggettivamente un valore aggiunto enorme, magari l'Inghilterra fa meno la differenza, è un po' più naturale, è un po' più in linea con quello che fanno anche le altre squadre. E quindi poi si alza l'asticella della difficoltà. Questa è la mia percezione. Sì, poi stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso arriva alla decima, che secondo me sarebbe un errore clamoroso. 13 punti a 5 dal City di Guardiola, che finora ha fatto praticamente percorso netto con un pareggio. Non mi sembra una situazione così drammatica. L'altro giorno Mondonico, tra l'altro, ci raccontava quell'aneddoto sul suo incontro con l'allora presidente della Roma Viola, che gli disse: per un allenatore straniero ci vogliono 6 mesi di apprendistato, a un allenatore italiano si chiede tutto subito. Ma coinvolgiamo nel discorso, come dico sempre, non cambio la definizione dai piani alti di Sky Federico Ferri. Ciao, e io non cambio il mio posto, sempre al secondo sono. Sempre al secondo sei. Buona giornata, ciao. Ciao, che ne pensi di questo discorso? Io penso, cioè, sono d'accordo con Pierluigi soprattutto nella seconda parte del suo discorso. Io credo che la squadra che ha a disposizione oggi Conte sia una squadra poco più che mediocre, almeno per quanto riguarda la difesa. Ha bisogno di un po' di tempo in più, anche per ambientarsi in quel campionato, perché non nasce imparato neppure lui, però sul valore assoluto dell'allenatore la penso diversamente dall'ascoltatore che ha chiamato prima, perché penso che sia già a livello di quelli che lui ha citato. Io ritengo veramente Conte un fuoriclasse assoluto, per metodologia, per lavoro psicologico, per come è riuscito a crescere anche lui. Conte è uno studioso del calcio e della psicologia del calcio applicata ai giocatori. Manca fede alla consacrazione internazionale, questo lo sappiamo. E io credo che sia un, rispetto ai nomi citati prima, manca qualcosa in termini assoluti in campo internazionale, ma è legato anche al tempo. Certo, perché è un allenatore tutto sommato giovane dal punto di vista calcistico. E anche anagrafico, se vogliamo. Esattamente, ma siamo ancora nei primi 10 anni della sua carriera di alto livello, no? Quindi credo che se lo paragoniamo ad esempio a Ancelotti, siamo pienamente in linea. Sì, certamente. Restiamo su questo strano incrocio, sentendo un'altra voce di Allegri che ha già parlato. Benatia può giocare dall'inizio, ieri ha fatto un buon allenamento, e oggi lo vedrò di nuovo, abbiamo domani mattina. L'unico che rientra oggi, perché gli ho dato 2 giorni in più di riposo, è Bonucci, e quindi ho Benatia, Barzagli e Chiellini. Poi Evra può far centrale, Listani può fare 1-3 centrale, possiamo giocare anche a 4, non ho ancora deciso, oggi dovrò vedere un po' l'allenamento. Vabbè, oggi vedrà l'allenamento sotto la pioggia. Immagino questo strano incrocio. Conte sull'uscio, pare sull'uscio del Chelsea. Poi io continuo, il Chelsea ha smentito. Io continuo a pensare che sarebbe una follia totale. Allegri sempre con la nuvoletta di Fantozzi piazzata sopra la testa, con i soffi della, non so, dello zoccolo duro, durissimo della tifoseria juventina che soffia su questa nuvoletta mandandola su Allegri. Pardon. Ma sì, insomma, io penso che Allegri, abbiamo detto mille volte, sia stato in certi momenti un po' sottovalutato, magari abbia avuto la strada più in salita rispetto a Conte alla Juve per un fatto essenzialmente di... Ma sai, io sto parlando quasi di affetto. Ecco, di affetto, perché poi Conte, chiaramente lo sappiamo, era il secondo capitano della Juve, no? Era il capitano bis oltre a Del Piero, no? Era l'unico giocatore Del Piero a parte che in quegli anni aveva un tipo di feeling in qualche modo assimilabile a quello del capitano, quindi ha fatto cose straordinarie e ha avuto dei meriti storici oggettivi, perché la Juve di Allegri non sarebbe esistita senza la Juve di Conte, su questo non ci sono dubbi. È lui che ha fatto girare la ruota assieme alla società, assieme a Marotta, a Paratici, insomma, voglio dire, ha dei meriti che sono indiscutibili. Detto questo, Allegri ha avuto un po' di strada in salita, secondo me è un signor allenatore, lo era da prima che allenasse la Juve, l'ha dimostrata la Juve e ha probabilmente, come piccolo elemento in più rispetto a Conte, una capacità di giocare un calcio anche più europeo, dove per europeo si intende più aperto, più propositivo. Conte ha delle altre qualità, sicuramente Allegri in questi anni ha pareggiato magari qualche partita che Conte avrebbe vinto, perché qualche momento più di concentrazione c'è stato, però di contro ha ottenuto a livello internazionale delle cose che Conte secondo me non ha ottenuto. Sì, non sarà mai comunque completamente amato dalla tifoseria. Se vince la Champions, magari... Ma se vince la Champions magari sì, però poi alla prima sconfitta in amichevole successiva sarà chi dice: ah, però questa, la squadra che ha vinto la Champions l'aveva costruita Conte, Ferri. Ma sai, Conte è come Lippi, in più peraltro Conte c'è anche il passato da calciatore che ricordava Pierluigi, che non è poco, anzi, però Conte come Lippi ha avuto un merito straordinario per i tifosi della Juventus, cioè è riuscito a prendere in mano la squadra e a vincere al termine di un momento di lunghissima assenza. I tifosi della Juventus non sono abituati ad aspettare tanto tra una vittoria e l'altra. Ecco, Lippi e Conte sono arrivati dopo una lunga assenza e hanno riportato la Juventus, per enormi meriti propri, anche di entrambi, in alto. E questo è una cosa che rimane per sempre. Probabilmente solo la vittoria della Champions può portare un allenatore a quel livello, ma a livello affettivo, a livello di feeling assoluto, questi due allenatori, come il primo trapattone della Juventus, ma direi ancora di più questi due allenatori, rappresentano un qualcosa che non sarà facilmente sì, Federico, copiabile dagli allenatori. E io mi sentirei di mettere di inserire anche Allegri in quella ristretta in quel ristretto club di top manager, di top coaches, di top misters. Oggi stiamo usando anche troppo inglese. Vabbè, fermiamoci un attimo per il traffico, poi preparatevi perché c'è Manuel da Venezia già in linea, 800 24 00 24, lo faremo parlare. Preparatevi ragazzi perché facciamo la schedina. Tutti convocati. Qui si fa fatica ragazzi. Convocati. Pierluigi Pardo e Federico Ferri collegati con noi. Manuel da Venezia, com'è la situazione dell'acqua? Alta? Molto alta, molto alta, ma soprattutto qui piove veramente, che è un disastro. Senta, io volevo praticamente parlare di un argomento di cui avete parlato ieri, sì, a malincuore, devo dire. Ho sempre avuto totale e profondo rispetto per voi, perché siete persone molto preparate, sia dal va punto bene, di vista arriviamo, culturale. Arriviamo ai nostri, bene, ai nostri errori. Arrivo dunque. Si è parlato di scommesse, parlando di scommesse sportive, esulandole da quello che poi è la ludopatia. Io purtroppo ho avuto un familiare affetto da ludopatia, e devo dire ho seguito questo problema, diciamo, molto da vicino. Voglio praticamente risentire da questo, dicendo che proprio si parte dalle scommesse sportive con competenza per poi molto spesso arrivare praticamente alla ludopatia, a giocarsi praticamente tutto lo stipendio e arrivando praticamente a distruggere a volte le famiglie. Questo è un argomento complicato. Se mi permette, visto che praticamente con leggerezza e con un minimo di arroganza è stato detto che sono due cose diversificate, mi permetta solo di distinguere. No, due cose diversificate, okay, sono l'azzardo e la scommessa sportiva. Queste sono due cose diversificate. Poi che quello della ludopatia sia, no, sia un problema, questo è una cosa indubbio che ha detto Franco Arturi, e ovviamente l'abbiamo riportato, era oggetto di un suo articolo sulla Gazzetta. Io ribadisco quello che ho detto ieri, cioè secondo me si gioca troppo, ci sono troppe fattispecie bravo di gioco, su questo molte è delle indubbio quali non hanno niente a che vedere con la competenza e possono diventare, a voler pensare male, anche uno strumento questo ulteriore. È un altro aspetto ancora, Pierluigi. Poter puntare sul numero pari o dispari dei gol, piuttosto che sul primo calcio d'angolo, piuttosto che su cose che poi non sono rilevanti dal punto di vista dell'andamento di un match, fa sì che si possa anche pensare male, si possa secondo me favorire alcune forme questo, anche questo di, riguarda i protagonisti, questo malaffare naturalmente riguarda detto i protagonisti questo, del detto gioco. Questo, io da non giocatore quale sono, condivido pienamente, io dico semplicemente che è un po' strumentale secondo me la polemica nei confronti della Federcalcio quando c'è tutto il mondo che ormai tutto il mondo del calcio che ha partnership con aziende di scommesse e quindi bisogna capire se le scommesse sono legali e sono legali. Poi ribadisco, sarebbe meglio dal punto di vista dell'immagine e dell'opportunità che la Federcalcio i soldi che prende da quello sponsor lì li avesse presi da una bella azienda di pomodoro italiano, sì, o di pasta o di che ne so. Però di è inutile nascondersi dietro un dito, le aziende di scommesse, insomma, in questo momento sono quelle che hanno disponibilità economica, che hanno il grano. Quindi o facciamo un discorso proibizionista, e non mi sembra che ci siano le condizioni, anche perché saremo gli unici al mondo, o se no rientriamo in quelle fattispecie, in effetti un po' scivolose, di tutti quei prodotti che a piccole dosi sono tranquilli, sereni e accettabili e che invece a grandi dosi possono creare dipendenza, per cui probabilmente una sigaretta al giorno non uccide, ma se poi uno invece per 30 anni si fa tre pacchetti al giorno può avere dei problemi, no? O anche lo stesso alcol. Questo è evidente, questo è evidente, quello della ludopatia è un problema serio, cioè, ci sono anche, e lo ripeto tutte le volte, tutte le volte che vado in tabaccheria, insomma, ci sono delle persone anziane che si comprano 8 gratte vince per volta, anche quella è ludopatia, ma è un discorso molto più serio. Non giocate, è il mio consiglio proprio agli amici, quelli che poi esagerano, è non giocare, si perde sempre. Secondo me alla Federico fine, alla lunga, perché se non sei in grado di gestire il processo, se sei in grado di gestire come tutte le cose della vita, certo, se sei un divertimento, se sei sereno, vino, allora è chiaro che il bicchiere di vino è un piacere, basta. Se però ecco non la distinzione tra quelli che vanno allo stadio per a vedere la partita e quelli che vanno allo stadio a fare a botte, a fare casino, a fare cacciara. Può essere, anche qui stiamo forzando i termini. Ma in no, maniera Carlo, è un fatto secondo me di misura, perché è evidente che se tu hai una dipendenza, appunto una ludopatia, se anche tu vinci continui a giocare i soldi che hai vinto e alla fine perdi, questo è abbastanza oggettivo. Se invece sei uno che si fa una scommessa a settimana così per divertirsi, che non gli cambia la vita, allora è completamente diverso. È chiaramente un altro discorso. Da questo punto di vista sicuramente hanno una cultura che nasce prima. Hanno una cultura più profonda. Che non toglie che pure in Inghilterra ci sia chi si è rovinato. Vabbè, ragazzi, attraverso noi, il gioco. Noi allora, per essere totalmente dissacranti, adesso con Federico Ferri facciamo la schedina della domenica settimana. Oltretutto facciamo la schedina della settimana. Euro su questo. Non la facevo dalla quarta ginnasio, quindi dalla quarta ginnasio più facevo, o meno, mi sa. Mamma siamo mia. Lì, Perché Federico ha fatto non è che sono così vecchio. Sei molto giovane. Non sono passati molti anni, ma adesso te la facciamo rifare. Allora, Napoli-Roma, cominciamo dal piatto forte che si gioca alle 15 di domani. Federico. Pardo. 1. Juventus-Udinese. 3-1. Sì, 1-1. 1 per tutti e due. Federico, Pescara Sampdoria, che domani alle 18 non è esattamente la partita dei sogni, una partita per cultori della materia. Però diciamo. Pescara gioca bene, quindi 1. X. Passiamo a domenica, Fiorentina Atalanta. 1. Genoa Empoli. 1. X. Inter Cagliari, partita molto interessante anche per tastare il posto all'Inter. Over per Pardo, 1 per Federico Ferri. Lazio-Bologna 1, 2-0 per la Lazio. Ah, qui ti esponi direttamente col risultato. Vince il Bologna, Fede? Sì. Vince il Bologna. Sassuolo-Crotone 1 per entrambi. Sì. Altra partita barometro, questa volta per l'altra milanese. Chievo-Milan, domenica sera. X 2. E infine, lunedì, Palermo-Torino. 2-2. Mi sembra che siete più o meno sulla stessa linea. Guarda che apparentemente non è un turno... No. È un turno apparentemente con 4-5 partite scontate. Apparentemente potrebbe essere tra i più scivolosi. De Luca tiene il conto e poi lunedì rivediamo tutto. Grazie Pierluigi, ci sentiamo domenica. Ciao. Grazie Federico Ferri dai piani alti grazie di Sky, che se sei al secondo. Ciao. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenichi. In mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Stia spingendo la macchina a 200 all'ora. Se non si capisce questo, ma soprattutto non si vuole capire, è un problema che non mi riguarda. Inizio a essere stufo di questo. Quando inizia la partita vuole sempre vincere. Questo deve essere un nostro obbligo, è quello su cui stiamo lavorando ad inizio anno, sulla mentalità, sull'atteggiamento di fare le partite per ottenere il massimo, per ottenere la vittoria. Solo lavorare, stare zitti, pedalare, cercare di essere competitivi nel più breve tempo possibile. Le altre cose fanno parte del contorno. Allora inizio a stufarmi sentire delle stronzate. in settimana da pseudo intenditori di calcio. Da pseudo intenditori di calcio. Antonio Conte, un po' pure le sue dichiarazioni più fumantine, diciamo così. Stefano, buongiorno. Buonasera a tutti. Dica. E grazie per la comunicazione. Niente, volevo un attimino controbattere diciamo l'opinione che ha dato il vostro ascoltatore prima di Bologna. Sì. Riguardo Conte. Sì. Allora, io premetto che sono tifoso della Juventus e di Conte, diciamo, a livello di lavoro sono contentissimo. A livello di persona un po' di qualche dubbio, però comunque quella è un'altra cosa. Allora, quello che volevo dire è che anche Conte comunque ha preso la Juventus, diciamo che non navigava in buone acque, perché aveva fatto due campionati dove veniva da dei sesti posti, no? Poi comunque ha dato la sua mentalità, che era quella poi che ha sempre messo in campo nella Juventus, di giocatore vincente, quindi dall'allenatore vincente, ha fatto diventare una squadra, tra virgolette, non dico mediocre, però non fortissima, e ha messo diciamo in condizione questi giocatori di esprimersi al massimo e di fare quello che hanno fatto. Quindi hanno vinto 3 scudetti e penso che sia, diciamo, un buon allenatore. Poi comunque sempre l'ascoltatore di Bologna ha detto che l'ha paragonato a Mourinho, è stato Federico Ferri a inserire Conte, e io sono d'accordo e ci metto, sì, anche Allegri nell'elite degli allenatori europei. Sì, no, questo sono d'accordo anch'io, però l'ascoltatore che era intervenuto diceva che Conte era un allenatore mediocre e non era da mettere in paragone con Mourinho, con Guardiola, con Capello, con questi allenatori qui, che sono sì bravi allenatori, anzi fortissimi allenatori, fuori classe, diciamo, a fare gli allenatori, però anche loro, cioè, non è che allenano, diciamo, l'Empoli, ecco. Anche perché con l'Empoli non vinci né lo scudetto né la Champions, ecco, questo è evidente, ecco. Poi riattacco il disco rotto che mi riguarda, e secondo me allenare comunque grandi squadre è un mestiere diverso rispetto a quello di fare l'allenatore di pallone tout court in squadre di rango diverso. Coinvolgo una discussione con grande piacere Alessandro De Calò, della Gazzetta dello Sport, di cui oggi leggo una opinione particolarmente importante, non su Conte, ma dall'iniziamo, ma su Balotelli. Buongiorno, ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Cosa ne pensi di questa voce smentita dal Chelsea, ma pesantemente influenzata? Così sottolineata dai bookmakers di un possibile esonero di Conte, che ricordiamo domenica sfida, che nel prossimo weekend sfida il Leicester di Ranieri. Ti sembra realistico o ti sembra una follia? Ti sembra uno zamparinismo che ha preso Abramovic? No, beh, insomma, diciamo che il brivido comincia a correre sulla schiena, nel senso che ci aspettavamo tutti di più da Conte, credo anche Abramovic, che secondo il Times negli ultimi 3 giorni ha pranzato per 3 volte consecutive con Conte, e i due hanno fatto il punto della situazione. A quanto pare Conte ha detto basta, ci abbiamo provato di riesumare questo gruppo che 2 anni fa aveva vinto il campionato con Mourinho e l'anno scorso l'ha portato nel baratro, e evidentemente pensavano di riuscire a tirar fuori ancora delle cose, che il problema fosse soprattutto il rapporto tra il nucleo storico e Mourinho, e invece evidentemente il rapporto tra questo nucleo storico e probabilmente qualunque allenatore, e l'impressione che Mourinho abbia veramente tirato fuori tutto quello che era possibile fare, un po' come aveva fatto all'Inter quando c'era stato. Sì, perdonami, però allora, il Chelsea è vero che ha subito due pesanti sconfitte, però 13 punti a 5 dal City di Guardiola, che ha percorso netto salvo un pareggio. Non mi sembra ci siano le condizioni, considerato anche, ed è vero quello che diceva prima Pardo, che non ha una difesa supersonica, cioè non ha la difesa dei suoi sogni in questo momento. Il Chelsea non mi sembra una squadra a livello del City e dello United, per dire. Guarda, il discorso è un po' complesso, nel senso che Abramovic avrebbe sempre voluto Guardiola, perché gli piace il calcio di Guardiola, perché pensa che il calcio di Guardiola sia il miglior calcio del mondo ed è difficile dargli torto. Il problema è che lui aveva cominciato a cercare di costruire una squadra che potesse avere dei giocatori adatti a quel tipo di calcio, e poi quando Guardiola gli ha detto di no si è ripreso Mourinho, quindi Mourinho ha dovuto costruire una squadra con dei giocatori che non avevano esattamente le caratteristiche che a lui servono per giocare, certo, diciamo, in difesa e contropiede in modo un po' più evoluto e elaborato, ma questa è la sostanza. La verità è che il Chelsea gioca male, e una delle cose che vorrebbe Abramovic non è più soltanto vincere, ma è giocare bene, perché insomma in un campionato, diciamocela tutti, è un campionato nel quale c'è il City, lo United, questo United, c'è il Tottenham che è una squadra che sta piano piano crescendo e gioca molto bene, sì, l'anno scorso ha giocato il miglior calcio, anche se poi ha vinto il Leicester come sappiamo. C'è l'Arsenal, l'eterna perdente, c'è il Liverpool che ha battuto, tra l'altro il Chelsea, certamente un campionato estremamente competitivo. Non tutti possono vincere, non tutti possono vincere, però con il Liverpool il Chelsea ha fatto una pessima figura. Cioè, il problema è che tu puoi anche non vincere, però devi giocartela alla grandissima, e questo non sta succedendo. Non solo, ma il Chelsea era partito abbastanza bene promettendo di crescere, e viceversa piano piano sta scendendo d'abito, e invece cosa che non accade allo United, dove Mourinho ha grandissime difficoltà, anche la sua squadra non riesce a giocare un calcio, stessi, diciamo, punti del Chelsea dopo sette partite, però sta crescendo, cioè ci sono dei sintomi che può molto migliorare, e invece al Chelsea ci sono dei sintomi che sta peggiorando. Allora, cambiamo argomento e parliamo della tua opinione a pagina 19 di oggi della Rosea. Balotelli, nuovo Ibra e nazionale, titolo molto forte, però è indubbio che si stia assistendo a una sorta di, speriamo, rinascita, anche se forse mi sembra una parola grossa, però prima pagina dell'Equipe, Balotelli a torso nudo che esulta dopo uno dei 6 gol segnati stagione, 5 nella Ligue 1 e 1 in Europa League. Ci sono un sacco di carezze di Mancini, sono suo fratello maggiore, ci credo, può essere un grandissimo campione, può tornare ad essere quello che è, l'ho sempre apprezzato anche per le sue follie, insomma moltissime carezze a Balotelli. Stiamo assistendo ai confini dell'impero calcistico, diciamolo pure, a Nizza, forse a un nuovo modo di Balotelli, forse a quello di cui Balotelli aveva bisogno, e cioè fiducia, campo, il fatto di non essere messo in discussione e nemmeno troppo sotto i riflettori come in Francia accade. Perfetto, tutte cose perfette quelle che hai toccato. Direi che la sua è una storia straordinaria e fragile, straordinaria perché è nelle cose che i migliori giocatori francesi, che non sono pochi, insomma pensiamo a Griezmann, a Pogba, il giocatore più pagato della storia, pensiamo ai vecchi Ribéry e Benzema, sono tutti fuori, giocano tutti in altri campionati. E la loro torre Eiffel del calcio era Ibra. Sì. Se n'è andato, c'è questo grande vuoto da riempire, e come lo riempi? Lo riempie Cavani? No, Cavani è un bravo ragazzo, un bravissimo attaccante, ma non è un personaggio. Viceversa, Balotelli non è, per i numeri e per la carriera, ai livelli di Cavani, però è molto più personaggio. Insomma, certo. Cavani non ha mai avuto una copertina di Time, Balotelli sì. Sì, questo è già questo, no? Senti, ma non è che avesse bisogno, cioè che insomma abbia sofferto Balotelli in maniera così, in maniera molto forte, quasi violenta, la pressione che gli è stata messa addosso, anche per colpa sua? Ma per colpa sua non c'è il minimo dubbio. Io credo che insomma tutti noi non abbiamo mai preso le misure giuste con lui, e lui non ci ha mai aiutato a prenderle, e probabilmente non le ha prese con se stesso. Forse qualcosa sta cambiando, insomma. Cioè, tu parlavi prima di Mancini, io siccome sono molto anziano ho seguito Mancini anche da giocatore, e mi ricordo che Mancini, che a 18 anni era annunciato come una specie di messia e Pelé bianco del calcio italiano, poi si era perso, e attorno ai 25 anni a un certo punto, in una partita giocata a Dortmund in Coppa delle Coppe, nella quale la Sampdoria stava andando a picco, lui ha avuto veramente un cambio, come una mano che volta pagina, è entrato nella partita anche fisicamente in modo cattivo per dire ragazzi, io sono Mancini. Da quel momento è ricominciata l'ascesa. Sì. Può darsi, speriamo, perché la cosa riguarda direi in modo molto egoistico l'interesse di tutto il nostro calcio. Chiaro, e anche chiaro. Che questo possa succedere anche al ballo. Grazie Alessandro, grazie. Grazie a te e a tutti, buona giornata. Adesso, prima di andare a parlare delle prove di questa mattina in Giappone per quanto riguarda Moto Mondiale, con la notizia che ho dato all'inizio, e cioè che Pedrosa sarà fuori dai giochi, è caduto, si è rotto una clavicola, verrà sostituito da Aoyama, vi faccio sentire una dichiarazione molto interessante di pochi minuti fa di Sarri. Siccome quel tipo di risposta a quel tipo di domanda che mi sta posta minimo 5 volte durante questa stagione è sempre stata la stessa, identica risposta, anche quasi sempre le stesse identiche parole, io vorrei capire perché dopo una sconfitta viene interpretata, come ho detto te, tra virgolette, in maniera diversa rispetto a prima. Io ho dato la stessa identica risposta 5 volte. Perché dopo Bergamo è stata interpretata in maniera diversa, come una resa? Ho sempre detto che la Juventus rappresenta quello che rappresenta il Bayern Monaco in Germania, Paris Saint-Germain in Francia, il Real Madrid in Spagna, e quindi fondamentalmente è la più forte di tutti, cosa che avete scritto tutti, perché è stata interpretata in maniera diversa? No, io sinceramente non riesco a capire. Si riferiva alle parole molto criticate, molto discusse dello stesso Sarri, parole che suonavano come una resa dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta. Ma adesso andiamo a The Voice del Moto Mondiale, Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ciao Carlo, ben ritrovato, un saluto a tutti gli radioascoltatori. Allora, questo è, ma ne parliamo dopo, è il Gran Premio del prendere o lasciare, io credo, per sì. Rossi e Lorenzo, ma stamattina intanto è caduto Pedrosa che sta già tornando a casa, sfigatissimo, scivolata, botta alla spalla, rottura della clavicola, Aoyama al suo posto. Ennesima clavicola per il povero Davide Pedrosa, che ne ha rotte molte, infatti veramente tutto il box è affranto per questo pilota che era in grande ripresa e non si meritava questo stop. Il problema è stato che la mattina c'è stata una temperatura quindi molto calda, mentre invece è cambiata la condizione meteo e si è raffreddata l'atmosfera ed è diventato rischioso il pomeriggio, sono caduti in diversi, anche Marquez per esempio si è allungato ma senza nessun problema. In ogni caso la mattina Dovizioso, la Ducati più veloce, Marquez alle sue spalle, Lorenzo e Bombale quarto, era molto vicino perché sono molto ravvicinati, meno di 4 decimi, Dani era quinto, e invece cambiano le cose nel pomeriggio, Lorenzo è lì davanti e dietro c'è Dovizioso che comunque domina e quindi la Ducati qui è sempre stata molto competitiva, terzo Vignales, Marquez quarto, Crutchlow quinto, sesto Espargaró e vale solo settimo, però attenzione, è a 0,381, quindi meno di 4 decimi. Come vedi sono tutti molto attaccati, quindi il settimo non è una buona posizione, ma non è distaccato di tantissimo. Sì. Il problema è bilanciamento, dichiarato Vale, cioè con la protesi delle gomme morbide, sia le gomme dure, ma non è riuscito a trovare la quadra, soprattutto distaccata. Domani dovranno lavorare molto per trovare un setting ideale. Sei d'accordo che questo sia il Gran Premio del prendere o lasciare, sia per Valentino che per Lorenzo, no? Guarda, questa tripleta, cioè le tre gare che ci sono adesso oltreoceano, poi gran finale a Valencia, ma è qui, è questa gara dove si deciderà tutto. Valentino ha già fatto capire che sta puntando Lorenzo, cioè a fare secondo posto in campionato davanti a lui, mantenere questa seconda posizione, piuttosto che andare a rischiare e tentare il tutto per tutto con Marquez. Cioè sul piatto della bilancia dà più peso al prestigio di arrivare davanti a Lorenzo, piuttosto che tentare l'impossibile. Marquez si è dichiarato comunque abbastanza soddisfatto, pensava di andare peggio su questa pista, invece alla fine, secondo la mattina, quarto il pomeriggio, è lì, staremo a vedere. Lui ha dichiarato che vuole fare ragioniere, vuole accontentarsi, vuole riprendere il mondiale. Strano, ha tirato fuori gli artigli un giorno, è basato a mettere per mettere in riga tutti, per fare la voce grossa, per fare la voce del leone, adesso dice torno ragioniere, Fantozzi, mi faccio i miei conticini. Vedremo, secondo me la miccia si può accendere, può succedere di tutto, lo speriamo perché è ancora aperto, lo dice la matematica. Ma sì. E staremo a vedere, grande consenso e tifo per Vale, come sempre. Incredibile quello che raccoglie anche oltreoceano, del gran giallo ovunque, commenti pazzeschi, d'altronde lo sappiamo, è così. Potrebbe essere una bella gara, speriamo nel tempo. Ducati competitiva, peccato ci manchi il nostro Iannone, deve aspettare al suo posto. E lì dopo, Barberà e dopo l'ennesimo niet di Casey Stoner. Eh sì, è stato giudicato molto negativamente da parte degli appassionati. Io vedo il fermento che c'è da quelli che seguono e non è piaciuto questo gesto, perché in questa situazione poteva mettersi sulla moto. Pare che abbia rifiutato anche una possibile gara a Phillip Island, che è il suo giardino di casa, dove gira bendato. Mm-hmm. Sappiamo quello che fa quel pilota su quella pista. Mm-hmm. E fa un po' disperare. I più talebani sono assolutamente contro e dicono: ragazzi, poteva farlo, e c'è invece chi lo difende e dice: sì, no, la sua scelta l'ha fatta, staremo a vedere. Beh, la scelta l'ha fatta ed è una scelta che profuma di marketing da entrambe le parti, senza appena sulla lingua. Esatto. Robertino, sì sì, sempre più Formula 1, sempre più strategie a tavolino. Uh-huh. Interessante anche il confronto tra Honda e Ducati sulla storia delle ali. Botta risposta, avrete visto, anche voi appassionati lo sanno, sui nostri giornali, Dall'Igna che risponde al numero uno di Honda, perché su queste ali dove Ducati ha studiato molto per l'aerodinamica e porta dei vantaggi, e invece Honda ha fatto sì che venissero tolte, l'anno prossimo non ci saranno più, quindi era un valore aggiunto tecnico per poter arrivare alla prestazione, secondo Dall'Igna. Loro non sono a quel livello e allora hanno votato contro. Mm-hmm. E giù ancora commenti, insomma, comunque fa parlare il mondiale questo, come no, fa parlare, e noi ne parleremo. Il più divertente degli ultimi anni, e noi ne parleremo, ti aspetto qui lunedì. Ciao Roberto, un abbraccio. Buon weekend a tutti. Buona ciao. E questo sarà il weekend anche di un difficilissimo, perché per mille ragioni, e sto pensando anche al mondiale di calcio, ad un difficilissimo mondiale di ciclismo in Qatar. Ciao Piero Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Sì, lì per correre devono mettersi il ghiaccio anche nei calzettoni. Non sì, sì, sì. Qualcosa di pazzesco. Bisogna correre con l'aria condizionata sul capo, nel vero senso della sì, parola. Sì, sì, sì, il cappello col ventolino. Allora, cos'è successo fino adesso? E poi andiamo su Viviani e sulla domenica dei Ma dei intanto... In ordine, diciamo, di tempo, abbiamo mostrato un'altra medaglia con un ragazzino juniores che purtroppo per lui e per noi è arrivato quarto, quindi medaglia di legno. Ci dobbiamo accontentare, però sono ragazzi di 18 anni, va bene anche così, non possiamo fare processi dei ragazzi che sono alle prime esperienze internazionali. Noi abbiamo festeggiato invece la medaglia, anzi ricordo il nome del ragazzo che è arrivato quarto, si chiama Mozzato. Mm-hmm. Ed è arrivato quarto. Questa mattina invece medaglia d'oro per l'Italia con Elisa Balsamo, che ha vinto una bellissima volata e quindi ha regalato la prima medaglia d'oro in questa rassegna iridata ai colori italiani, che si va a aggiungere a un argento e a un bronzo, al bronzo ieri negli Under 23 con Maresco, questo ragazzo italo-polacco che in realtà è stato molto bravo a inventarsi uno sprint tutto solo, ma la squadra azzurra è un po' mancata, bisogna dirlo sì, con serenità. Sì. Oggi aspettiamo Viviani, ma poi soprattutto domenica la professionisti, ovviamente la regina delle corse nella settimana del Mondiale. Si parla di squadre molto spaccate, di una corsa che potrebbe essere anche tatticamente difficile da leggere. È una corsa molto difficile da leggere se ci sarà il vento. Se ci sarà il vento sarà un mondiale anche divertente, perché come ti ho sempre detto e continuo a ripetere, la montagna invisibile fa più paura delle montagne vere. Se invece non ci sarà vento ma ci sarà solo caldo, allora ahimè temo che si possa assistere a un campionato mondiale di ciclismo simile a una gara noiosissima di Formula 1, dove tu vedrai questi corridori pedalare nel deserto che cercheranno in primis di non farsi cuocere dal sole, quindi che si riempiranno di borracciate d'acqua gelida per poi arrivare a fare uno sprint finale che non ci vede grandi favoriti, no. Perché noi, come dice Mario Cipollini, abbiamo la squadra più forte di tutte, cioè il treno più qualificato a livello mondiale, con i vari Daniele Bennati, che è il regista in corso, un uomo di grande esperienza. Tutto, manca Daniel la palla Oz, di cannone. Ma ci manca il bomber, ci manca l'Higuaín, manca, manca bravo, quello, bravo, quello che mette la palla in rete. Esatto. Con l'Italia purtroppo non ce l'ha, c'ha due buoni corridori, che sono Elia Viviani, che sappiamo medaglia d'oro a Rio, ma in pista, in strada, è un buon velocista, ma non fa parte, diciamo, dell'elite del velocismo mondiale. È il campione italiano Giacomo Rizzolo, che anche lui è un corridore resistente, ma generalmente con i grandi big, con gli uomini jet del velocismo mondiale, è un uomo che arriva qui sesto, settimo, cioè si può piazzare, ma è difficile. Servirebbe una gara molto strana, che date le condizioni ambientali, come dici tu, è difficile da prevedere. Sentiamo Pier Augusto domenica. Ciao. Ci sentiamo domenica, più che volentieri. Ciao Pier Augusto Staggi, e noi chiudiamo la settimana di Tutti Convocati. Domenica 17-19, Tutti Convocati Weekend, con Giovanni Capuano, anche e sottoscritto ovviamente Giorgio De Luca in redazione, in regia. No, non è né in redazione né in regia, ma è l'autore del programma. Perché in regia c'è Gianmarco Ferronato e in redazione Alvise Falzone. Ciao ragazzi. Pisa Rosso, devi pisa stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!